11 marzo 2008. Oggi ho compreso che le mie canzoni più lunghe sono collage di epifanie, macedonie di intuizioni che creano flussi di pensieri che sono spie di una creatività eccellente, ma sicuramente meno varia della quotidianità, ovvio di conseguenza fa meno impressione. Ma notando filologicamente la data di ogni strofa posso eliminare questa distinzione, lasciando solo quella trascritto il parlato, improvvisato, privo di rewind, ribaltando la tecnica dei miei testi più estesi tramite un decollage che lascia squarci nei miei viaggi epifanici. In quella loro volta sono nuove macedonie di pensieri preparati negli anni passati. E questo testo non ha solo data perché è una canzone corta.